sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Klaus curiosamente mi chiede: ma tu ci hai fatto l'abitudine a queste partenze e questi addii? Perché io no. E io già sento tutta la nostalgia del mondo spaccarmi in due. E l'innocenza perduta per sempre. E la certezza che la morte, d'ora in avanti, mi abiterà senza scampo. Se siete abituati a sentire questa sigla e anche questa voce, durante la settimana sarete probabilmente un po' spiazzati, considerato che questo è il fine settimana e difficilmente voi siete qui e andate in onda nel fine settimana, salvo qualche replica durante l'estate, probabilmente. E invece, se non l'avete mai sentita, beh, semplicemente benvenuti. Questo è un nuovo appuntamento che Radio 24 vi propone nei fine settimana, che parla di storie, che è quello che facciamo tutti i giorni. Appunto, Voi siete qui è un programma in cui ogni giorno raccontiamo la storia di una persona, di un ascoltatore o di una persona che è venuta a conoscenza di questo progetto narrativo, chiamiamolo così, oltre che programma radiofonico, ovviamente. È un programma che insieme a Tiziano Bonini portiamo avanti da 4 anni, questa è la 4ª stagione di Voi siete qui, un episodio che racconti qualcosa di voi. Questo è Voi siete qui. Il fine settimana Voi siete qui cambia un po' veste, cambia un po' pelle, sempre storie di persone raccontiamo, ma lo facciamo andando a frugare nei cassetti. Cioè non chiediamo di scrivere un racconto, non vi chiediamo di dire mettetevi lì e raccontate qualcosa che parli di voi, scrivete una pagina e inviatecela. No, no, noi semplicemente nel fine settimana vi chiediamo di andare a cercare quello che avete già scritto e che possibilmente avete già scritto in un diario. Io sono Matteo Caccia, vi dicevo, abbiamo un profilo Facebook che è sempre quello, è Voi siete qui Radio 24, abbiamo anche un profilo Twitter che è Voi siete qui R24, ma questa versione di Voi siete qui si chiama I diari di Voi siete qui. Una pagina, due pagine di diario che appartiene a voi, magari è un diario di qualche anno fa, o un diario che invece è appartenuto a vostra mamma, a vostra nonna, a un vostro parente o a un vostro amico, o perché no, un diario che avete trovato in una vecchia casa, in una casa in cui siete andati ad abitare, avete aperto un cassetto e avete trovato delle pagine scritte a mano col pugno di qualcuno che non sapete chi è, con una grafia che non conoscete, ma che racconta un piccolo pezzo di vita, è una fotografia della vita di quella persona in qualche momento preciso della sua vita, insomma un diario. Se avete voglia di partecipare lo prendete e ce lo mandate, magari insomma se lo trascrivete siamo più contenti, se ci mandate una fotografia va bene lo stesso, una scannerizzazione sarebbe fantastico. Voi siete qui @radio24.it. Ogni fine settimana quindi vi racconteremo due diari, due estratti di diari. Oggi in particolar modo cominciamo con, nella seconda parte, le parole che avete sentito in apertura, che sono le parole di Gaddo Flego, che è un medico che ha da poco vinto un premio, che è il premio di Pieve Santo Stefano, il premio indetto dall'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, con cui collaboriamo da un po' e che ci forniranno una parte delle storie che manderemo in onda. È una storia incredibile, avvenuta nel 94, quando lui già era medico e lavorava in Ruanda, durante quel periodo terribile che ha devastato Ruanda. La prima storia invece che vi raccontiamo è una storia che ci sta più vicina perché ce l'ha mandata un'ascoltatrice. È la pagina di un diario della nonna, la nonna Vittoria per l'esattezza, ed è andata come vi dicevo prima, cioè la nonna Vittoria a un certo punto, come ahimè succede ai nonni, è mancata e rimettendo a posto la sua casa, Vittoria e sua mamma, cioè la figlia della nonna Vittoria, hanno trovato questo quadernetto. Loro non sapevano che lei scriveva. Potete immaginare quale sia stata la loro reazione nel leggere le cose di una persona che non c'è più, che parla di lei ma che parla anche di loro. E insomma, noi ringrazieremo sempre moltissimo Melissa per averci mandato queste pagine che iniziano questa stagione dei diari di Voi siete qui, perché è un pezzo, immagino, che sia emotivamente molto vicino a lei, perché parla esattamente di lei, anzi parla del giorno in cui Melissa si sposava e la nonna Vittoria, per motivi che adesso vi spiegheremo, non poteva andare, non andava al matrimonio, e la sera scriveva queste pagine di diario. Non scrive caro diario, come di solito ci insegnano a fare a scuola, scrive caro Mario, ci spiega Melissa, perché lei in questo diario scriveva sempre come delle lettere al marito che non c'era più. Quindi il Mario che sentirete è il diario, e questa prima storia dei diari di Voi siete qui è la storia del diario della nonna Vittoria. Caro Mario, oggi Melissa si è sposata. Era fidanzata da poco tempo e hanno deciso in fretta. Tu non hai potuto conoscere Alessandro, ma ti sarebbe piaciuto, perché parla poco, come te, e sembra sempre riflessivo. E poi è una persona buona. A me piace. Melissa aveva un abito semplice che la faceva sembrare una principessa, una di quelle che si sposano in Nord Europa ogni tanto e le fanno vedere in televisione. Aveva uno strascico lungo e trasparente, e infatti si vedeva anche la sua schiena semiscoperta, che forse non era proprio da chiesa, ma che le donava moltissimo. L'abito me lo ha mostrato ieri, perché io oggi non sono riuscita ad andare, dal momento che sono bloccata per la mia età e la mia schiena, che non è più quella di una volta. Lei e Alessandro hanno deciso di sposarsi 4 mesi fa, e da quel momento il tempo non si è più fermato. Io ero stata poco bene nei mesi scorsi e speravo in un pronto recupero, ma non è stato così. E quindi quando nostra figlia mi ha chiesto se me la sentivo di esserci al matrimonio, io ho come sentito che era meglio dire di no, per lasciare tutti tranquilli e liberarli dal mio impiccio. Melissa ha provato a convincermi, ma sentivo di alleggerire tutti di un peso. E poi anche io avevo un po' paura di stare male e rovinare la festa a tutti. Che poi in fondo ho sempre avuto questa paura, quella di rovinare la festa, di non saper essere all'altezza e quindi del mettermi da parte, anche quando non era richiesto. Mario, se ci fossi stato tu, sicuramente ci saremmo andati al matrimonio di nostra nipote. Anche se tu eri un po' acciaccato, ce la saremmo goduta questa giornata. Oggi si è sposata alle 11, e mentre l'orologio sul mio comodino segnava proprio le 11, io stavo ascoltando il solito programma alla radio. Pensavo a come doveva essere bella e felice, e lo ero anche io con lei. Non mi è dispiaciuto non esserci, o almeno fino a quando lei e Alessandro non sono venuti a trovarmi nel tardo pomeriggio, prima di andare a festeggiare gli amici. Quando li ho visti, e li ho visti sorridenti, mi sono accorta di avere sbagliato a non andare. Avrei dovuto farlo. Avrei dovuto esserci. Perché ho sempre creduto che fare meno baccano possibile nel mondo fosse la soluzione migliore, e rovinare una festa di nozze fa un sacco di baccano, ma alla fine, poi, qual è il problema nel fare baccano? Nell'attirare un po' di attenzione. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. I diari di Voi siete qui. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Questa, come dicevo prima, è una versione speciale del fine settimana di Voi siete qui, che si chiama I diari di Voi siete qui. La cosa è molto semplice: non vi chiediamo questa volta di scrivere dei racconti da mandarci, vi chiediamo semplicemente di frugare nei vostri cassetti o nei cassetti dei vostri parenti, dei vostri amici è un po' più difficile, ma se ve lo permettono, perché no, e di mandarci una pagina di diario, una o due pagine di diario che rappresentino in qualche modo la vita vostra o delle persone che vi sono state vicine, proprio come è successo per Melissa con la nonna Vittoria, ed inviarcela a Voi siete qui @radio24.it. È una cosa in più rispetto ai racconti che raccontiamo ogni giorno alle 16 su Radio 24. Sono dei diari, sono delle storie che passano attraverso i diari di vita delle persone. E in questa primissima puntata dei diari di Voi siete qui raccontiamo un'altra storia, lo faremo sempre, lo faremo ogni fine settimana, due storie a puntata, due diari a puntata. Grazie appunto alla collaborazione che abbiamo iniziato da qualche tempo con l'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano in Toscana, loro ci forniscono dal loro splendido archivio, andate a visitarlo se potete, è un posto pazzesco, pieno di storie di vita delle persone, piene di pagine di vita, pieno di diari, appunto, che raccolgono da praticamente 30 anni. Loro ci mandano queste pagine di diario, noi ne selezioniamo in parte e ve le raccontiamo. Le pagine che vi stiamo per leggervi sono tratte da un diario di una persona che si chiama Gaddo Flego, è un medico, che tra l'altro, e cominciamo con lui perché lui è il vincitore del premio Saverio Tutino di Pieve Santo Stefano, che è il premio che appunto l'archivio dei diari tiene ogni anno a settembre a Pieve Santo Stefano, e lui è l'ultimo vincitore con questi diari che arrivano da un pezzo della sua vita che lui ha fatto in Ruanda, proprio negli anni in cui la Ruanda era in una condizione abbastanza difficile. La sua storia è abbastanza semplice. Nel 94 lui è un medico giovane ed è appena tornato dal Chad per Medici Senza Frontiere. Deve iniziare a frequentare un master, deve andare a Londra, insomma deve continuare la sua carriera, però come spesso succede per i volontari si rende disponibile per un'altra missione. In un attimo MSF lo convoca e lo spedisce in Ruanda, dove è in corso in quei momenti il genocidio, e lui parte. La sua equipe sono la moglie, che è infermiera, e Klaus, che è un belga che si occupa di logistica. Quella che sto per raccontarvi è proprio l'ultima parte del suo diario. L'ultimo pomeriggio lo passiamo a staccare gli adesivi di MSF da tutto: casa, ufficio, cisterne, frigoriferi. Mentre sono fuori a togliere quello sulla porta, vedo una suora bianca che guarda verso di me, verso la casa, da dietro la siepe accanto al boschetto di bambù. Penso che sia una suora svizzera di quelle che prima stavano lì e che mi venga incontro. Invece no, distoglie lo sguardo e lentamente se ne va, senza un saluto. Forse la fuga, l'atroce destino capitato a chi si è rifugiato nella maternità, le fanno sentire di avere perso ogni diritto su quei luoghi. O forse pensa che glieli abbiano semplicemente usurpati. Ma mi sembra che ci sia un po' di vergogna nei suoi gesti. L'ultima sera abbiamo organizzato una festicciola di addio sul prato davanti a casa. Abbiamo messo le luci fuori. Abbiamo messo le sedie, il tavolino basso della sala con un po' di birre e di bibite sopra e qualcosina da mangiare. Lo stereo fa suonare un po' di reggae. C'è il personale locale, qualche ragazza e qualche ragazzo del FPR in borghese. La gente passa soprattutto a salutarci, beve qualcosa e se ne va. Marie e le sue amiche a un certo punto ci fanno vedere una cassetta. C'è scritto Rwandese Traditionals ed è una musica lenta e dolce che iniziano a ballare con movimenti aggraziati. Avevamo già sentito queste musiche e visto queste danze nell'orfanotrofio. Io e Klaus avevamo anche cercato di fare un po' di lezione di ballo, ma i nostri corpi maschili occidentali sono troppo rigidi e goffi. E comunque si fa tardi, la guerra è finita, ma questo è un paese traumatizzato in cui la notte fa ancora paura. Salutiamo tutti, mettiamo a posto e andiamo a dormire per l'ultima volta a Niamata. Il programma è di dormire una notte a Kigali, per cui i preparativi non sono frettolosi. Abbiamo anche poco da portarci dietro, meno di quello con cui siamo arrivati. Prendiamo la strada polverosa e forse non ci sembra neanche di partire per sempre. È una strada che abbiamo fatto più volte e dalla quale siamo sempre tornati. L'auto ha solo una fila di sedili e io e Klaus siamo di dietro, nel cassone, sentiamo tutte le buche della strada. Klaus è quasi abbracciato al ghetto blaster che suona la cassetta di melodie ruandesi della sera prima, è rimasta lì dentro da ieri. Verso l'uscita della città superiamo Sylvie, che cammina sul bordo della strada. Ci saluta con la mano e con un bellissimo sorriso al quale io rispondo, e forse vorrei saltare giù dall'auto e dire «io resto qui», e invece la vedo scomparire lontano, nella polvere, e sento morire un pezzo della mia anima e staccarsi un brandello di cuore. E Klaus curiosamente mi chiede «ma tu, ci hai fatto l'abitudine a queste partenze, a questi addii? Perché io no». Ed io stupidamente dico «ma non è che mi capiti molto spesso». E già sento tutta la nostalgia del mondo spaccarmi in due, e l'innocenza perduta per sempre, e la certezza che la morte, d'ora in avanti, mi abiterà senza scampo. Quello che vi ho letto è il pezzo finale del diario più corposo che Gaddo Flego, che tra l'altro è un nome bellissimo, Gaddo staccato, cioè Gaddo è il nome, Flego è il cognome, no? Perché la prima volta che Tiziano me ne ha parlato dicevo mamma che strano cognome, no, proprio il nome e cognome, con cui appunto Gaddo Flego, che era ed è un medico, ha vinto il premio Saverio Tutino di Pieve Santo Stefano, dell'archivio dei diari. Pronto Gaddo, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno e grazie per essere qui con noi. di niente. Facciamo un viaggio al contrario. Che cosa fai adesso, Gaddo? Sei sempre medico, ovviamente. Adesso sono medico, sì, mi occupo di organizzazione dei servizi, quindi di direzione sanitaria. Invece andiamo a 20 anni fa, direi, giusto? 94. Era il maggio del 94. Tu quanti anni avevi, Gaddo? Io avevo 30 anni, ne stavo per compiere 31 e appunto venivo già da un'esperienza di lavoro in Africa di qualche anno, e a maggio sono tornato appunto dal Chad e poi all'inizio di giugno sono andato in Ruanda come senza frontiere del Belgio. Senti, so che sembra una domanda banale, però in fondo non lo è, nel senso che uno parte, tu sei ligure, giusto? Mi sembra di capire. Sì. Cioè, uno parte da un posto comunque tranquillo, dove, vabbè, non si sta benissimo, forse nel 94 si stava molto meglio, come l'Italia, e vai in un posto in cui invece si sta molto male, dove ci sono dei rischi molto forti. Non tanto che cosa ti spinge, perché immagino che le motivazioni siano varie, no? Motivi per cui uno decide di andare là a fare il suo lavoro, che è il lavoro del medico. Ma che cosa ti rimane addosso quando torni a casa e fai poi un lavoro e una vita normale, come quella che fai adesso? La cosa che mi aveva spinto era, da un lato, a me è sempre piaciuto molto viaggiare, insomma vedere posti nuovi, e ho sempre pensato così in un modo abbastanza, adesso oggi si direbbe globale, diciamo, all'epoca forse era qualcosa di diverso. E poi anche il fatto che dopo anni di studio, insomma, l'idea di poter utilizzare le cose imparate, no? Quindi fare il medico effettivamente, eccetera. Quindi le motivazioni erano quelle. Senti, visto che di fatto questa è una puntata che è dedicata ai diari, è uno speciale di voi siete qui dedicati ai diari, il tuo diario, questo con cui hai vinto anche il premio, innanzitutto quante pagine sono più o meno? Sono una sessantina di cartelle, non è propriamente un diario, nel senso è un'autobiografia, diciamo, il racconto di quei due mesi e mezzo in Ruanda. E deriva appunto da appunti presi all'epoca, poi insomma di fatto da quando sono tornato, a parte i primissimi anni, ma poi dopo ho sempre avuto così l'idea di dover scrivere qualcosa, insomma, su queste pratiche. Gaddo, poi purtroppo devo salutarti e ringraziarti, però c'è la frase finale con cui chiudi, che è una frase finale quasi pavesiana come stile e come aura. Mi spieghi cosa intendi quando dici ho la certezza che d'ora in avanti la morte mi abiterà senza scampo? Quello che appunto è più difficile poi da condividere, forse il motivo per cui uno poi dopo ha il bisogno di scrivere qualcosa di questo tipo, è questo, nel senso la sensazione di essere stato di fronte, di essere stato a contatto intensamente con qualcosa di così grande, che in realtà poi uno, come dire, deve coabitare con questa cosa, con questo ricordo. Io ti ringrazio ancora, Gaddo Flego, autore di Tra i sopravvissuti, Ruanda 1994, vincitore del premio, e a breve pubblicato, giusto? Perché il premio è anche la pubblicazione. Grazie ancora, Gaddo, buona giornata. Grazie a te. Ciao, a presto. Buona giornata a tutti. Ciao. Insomma, aprite i vostri cassetti, aprite i cassetti delle scrivanie che avete in casa o che avete in casa di vostra nonna o di vostra madre, e tirate fuori quei diari e mandateci delle storie, mandateci delle pagine di quei diari e mandatecele a voi siete qui, @radio24.it. Noi con i diari di Voi Siete Qui ci sentiamo il prossimo fine settimana, con Voi Siete Qui lunedì alle 16.